La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Un saluto da Franco D'Assisti, ben ritrovati alla Rosa Purpurea, il settimanale di cinema di Radio 24. Matrimoni anglo-americani, vampiri ragazzini, l'attualità della guerra fra Israele e Palestina e le sette anime da salvare di Gabriele Muccino. Queste alcune delle suggestioni, alcune delle proposte cinematografiche di questo fine settimana nelle sale italiane. Una settimana ricca quindi, con un paio di film che aspirano alle alte vette della classifica, appunto le sette anime di Muccino, Yes Man con Jim Carrey, una commedia leggera, cinema anche di grande interesse estetico e artistico, come nel caso di Matrimonio all'inglese e di Walzer con Bashir. Ma in questa puntata ci sarà spazio, come sempre, anche per il nostro DVD Game, per le recensioni dei film che escono in DVD, per sentire la voce di Oliver Stone, il cui W esce in un circuito di sale cinematografiche digitali prima di approdare poi alla prima serata televisiva in chiaro. E ancora avremo spazio per fare gli auguri di buon compleanno a Sergio Leone, che proprio in questi giorni avrebbe compiuto 80 anni. Ne parleremo alla fine della nostra trasmissione con Italo Moscati. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per partire. Cominciamo ad entrare nel mood della sala cinematografica con il nostro audio sommario. Tu non hai mai flashback del Libano? No, mai successo. Osserva bene questa foto. L'unica soluzione è che tu cerchi di scoprire cosa è successo a Sabra e Shatila, e allora forse riuscirai a ricostruire qual è stato il tuo ruolo. Balena in vista. Ammira il cottage di campagna. Oh, signore, è enorme. Sì, ho mentito sui recinti di pan di zenzero e sui nanetti obesi. È difficile nuotare nel fossato? Tutto fumo e niente arrosto, tesoro. Tutto fumo e niente arrosto. In 7 giorni, Dio creò il mondo. E in 7 secondi, io ho distrutto il mio. Quando firmerai, sarai proprietaria della mia casa. Ma non cercare mai di contattarmi, per nessun motivo. No. Tu trovi sempre delle scuse. No, vuol dire no. Quando è l'ultima volta che ti sei divertito? Tu dici no alla vita, quindi non stai vivendo. Tutte le volte che si presenterà un'occasione, tu dirai... Sì. Che strano odore che hai. Non hai freddo? No. Perché no? Non me lo ricordo perché... Il primo film che vogliamo affrontare è Matrimonio all'inglese, una commedia leggera ma intelligente, ironica, di grandissimo gusto, con un bel cast di attori sui quali spicca certo la bellezza di Jessica Biel, ma anche l'enorme bravura di Colin Firth e Kristin Scott Thomas, un soggetto che era già stato portato al cinema niente meno che da Alfred Hitchcock all'epoca del muto, oggi rivive con suoni e colori. Matrimonio all'inglese è stato visto per noi da Barbara Righini. Ritratto dello scontro di due società e di due modi di vivere. Un matrimonio all'inglese, ambientato all'inizio degli anni 30 del secolo scorso e tratto da un'opera di Noel Coward, mostra la decadenza dell'upper class inglese attaccata alle tradizioni e la lotta del vecchio mondo uscito dalla prima guerra mondiale per sopravvivere. Il nuovo è il jazz, la mentalità aperta, la voglia di divertirsi e di essere indipendenti. La ventata d'aria fresca arriva in casa Whittaker con la Rita, americana affascinante che piomba nella campagna inglese in un ambiente ingessato e lo sconvolge. La Rita è la neosposina di John, rampollo di casa Whittaker, sul quale la signora Whittaker aveva riposto ogni speranza. I due si incontrano a Cannes, colpo di fulmine, e in meno di un attimo la Rita e John sono marito e moglie. Quando lui porta lei a casa dei suoi, però, l'accoglienza non è delle migliori. La Rita non è ciò che la signora Whittaker aveva sperato per l'unico figlio maschio. Sono una di città, porto le galline dal veterinario. Ah! Non puoi farti tanti scrupoli sul bestiame adesso che vivi in campagna. Cosa che non è mai stata mia intenzione. Mi stavo felicemente ritagliando una nicchia nel circuito delle corse quando inaspettatamente mi ha dato lo stop un uomo irresistibile. Risposarmi era lontanissimo dalla mia mente. Capisco. Posso chiedere... Morto, sfortunatamente. Subito scorso scontro fra mentalità. La giovane americana, impeccabilmente vestita, si annoia a morte, è spesso sola e non riesce più a comprendere il marito, ma ci prova a capire la suocera e le sorelle del suo sposo. Intanto ha conquistato il cuore del signor Whittaker, un uomo apparentemente scontroso che si era ormai rassegnato a una vita infelice. Nel ruolo c'è un ruvido e affascinante Colin Firth. Quando mi chiesero di farlo non ero certo fosse giusto, insomma avevo già interpretato uomini inglesi dell'upper class. Quello che mi ha fatto decidere è stato il fatto che quest'uomo fosse così dimesso, così problematico. Poi ho pensato che quando la pista è stata scritta era subito dopo la prima guerra mondiale, un periodo terribile, un'intera generazione di uomini doveva essere completamente sottosopra. Anche il mio personaggio non poteva non essere coinvolto, tutto il film doveva risentire del periodo. Nei panni di Larita c'è invece Jessica Biel, un po' troppo femme fatale. L'attrice si sente vicina al suo personaggio. Yes, her sort of light-hearted mischievous. Sì, sono anch'io così leggera e gioviale. Mi sento giovane come lei, però vorrei avere la battuta pronta come lei. Questo non mi riesce. Entrambe abbiamo una personalità forte e coraggiosa e questo è stupendo. Matrimonio all'inglese è un film divertente, in modo arguto segna il ritorno di Stephen Elliott, già regista di Priscilla e la regina del deserto, a 10 anni dal suo ultimo film. Le sferzate in punta di lingua che Larita e la signora Whittaker si scambiano strappano più di un sorriso. Inoltre il film ha il pregio di vantare un cast azzeccato. Oltre a Firth si distingue una misurata Kristin Scott Thomas e si fa notare un impeccabile maggiordomo Chris Marshall, già visto in Funeral Party. In tempi in cui gli anni 30 nella moda sono tornati, prendete a punti con il guardaroba di Larita, potreste fare faville. Parte col piede giusto quindi la settimana cinematografica. Noi andiamo a vedere invece cosa è successo nello scorso weekend al Botteghino. Battaglia per gli incassi fra i due dominatori della campagna di Natale e delle festività. Da una parte Natalia Rio, dall'altra Madagascar 2. Vediamo chi c'è davanti questa settimana. Ce lo dice Daniela Faggion nella Screen Parade. Al vertice una nuova entrata nella top 5 degli incassi. Al quinto posto debutta l'horror The Strangers, che in 3 giorni porta a casa poco meno di 950.000 euro. Che cos'è? Il mio telefono. Oh mio Dio. Dobbiamo andarcene di qui. Io apro la porta e tu corri, ok? Quarto posto confermato per la romantica coppia Richard Gere e Diane Lane, protagonisti di Come un uragano. Altri 965.000 euro incassati per un totale che supera i 5 milioni. Saldi sulle loro posizioni anche Aldo, Giovanni e Giacomo per il trio del Cosmo sul Comò. Ancora medaglia di bronzo sul petto, un altro 1.400.000 euro e un totale che sfiora i 12 milioni complessivi. 82. Dopo l'exploit tra Natale e Capodanno, Natalia Rio torna al secondo posto in cui aveva debuttato, forte comunque di un incasso del fine settimana intorno ai 2.740.000 euro e di un consuntivo che sfonda il tetto dei 22 milioni. Torna così in testa la combriccola di Madagascar 2, oltre 2.800.000 lo scorso weekend, quasi 21.400.000 in tutto e molte animatissime risate. Ho una notizia buona e una cattiva. Quella buona è che stiamo per atterrare. Quella cattiva è che sarà un atterraggio di fortuna. Grazie per aver volato con Air Penguin. È più divertente se alzi le braccia così. La rosa purpurea. Ed eccoci quindi alla seconda parte della Rosa Purpurea, 3 film in questo blocco, tra quelli che arrivano nei nostri cinema. Vi ricordo che parleremo invece più diffusamente nella terza parte di 7 anime, forse il film più atteso per noi italiani di questa settimana, visto che ci riporta Gabriele Muccino alla sua seconda esperienza hollywoodiana. Ma andiamo con ordine, dicevamo, Vampiri Ragazzini, il grande successo di Twilight, adesso arriva un film molto bello, forse anche più bello, su questo tema, arriva dalla Svezia, l'ha firmato Thomas Alfredson, che fra poco sentiremo qui alla Rosa Purpurea, si intitola Lasciami entrare. ...1982, Blackberg, periferia di Stoccolma. Un parco cittadino di sera, neve tutt'intorno. Un uomo anziano, dall'apparenza mite, avvicina un passante, poi lo aggredisce, lo lega e lo appende a testa in giù. gli taglia la gola e fa in modo che il sangue cada tutto dentro un recipiente per non perderne nemmeno una goccia. E questo è l'inizio davvero poco rassicurante di Lasciami entrare, e sembrerebbe l'incipit di un film molto lontano dalla sua vera natura, che è quella di una storia d'amore profondamente romantica. Quell'uomo infatti è un padre disperato, il padre di una giovane vampira di 12 anni alla quale deve procurare ogni giorno l'unico cibo possibile, sangue umano. La ragazzina, Eli, occhi grandi, carnagione pallida, esce solo la sera, come ovvio, data la sua natura, e in un parchetto sotto casa incontra Oscar. Che stai facendo? Niente. E tu che fai? Niente. Abiti qui? Accanto a te. Te lo dico subito. Non posso essere tua amica. Eli e Oscar sono vicini di casa, sono coetanei e per ragioni diverse sono entrambi emarginati. Eli la vampira, curioso animale notturno, Oscar il debole, vittima del bullismo dei suoi compagni di scuola più grandi. Che stavi scrivendo in classe? Che vuoi dire? Fammi vedere. No. Hai detto no. Dammi qua. Ma intanto la piccola comunità del quartiere è sconvolta da una serie di macabri ritrovamenti. Un uomo congelato in un lago, uno aggredito sotto un ponte, una donna morsa sul collo. Eli è un vampiro e deve mangiare per sopravvivere. Solo Oscar sembra essere al riparo dai suoi istinti. Presto l'amicizia fra i due ragazzini infatti si trasforma in amore. Un amore che dà a Oscar la forza di ribellarsi ai suoi aguzzini. E quando Oscar non ce la fa, c'è sempre Eli, pronta ad aiutarlo, nell'unico modo che conosce. Devi invitarmi. Che succede se non ti invito? Che fai, entri lo stesso? Tratto dall'omonimo bestseller letterario pubblicato in Italia da Marsilio, Lasciami entrare è un raro caso di vero horror d'amore. Lontano dagli stereotipi vampireschi, dai denti aguzzi al sesso maschile, il regista Thomas Alfredson attinge più che altro all'horror d'autore, alla Romero, per quel che concerne le scene d'azione, con effetti speciali ridotti al minimo. Nell'atmosfera di una Stoccolma plumbea è il contrasto fra il sangue e la neve che traccia stilisticamente il film e che ben rappresenta l'amore fra questi due ragazzini messi all'angolo dalla vita e capaci di una comprensione reciproca che sfiora la simbiosi. Il confronto con il recente successo americano Twilight è d'obbligo. Tra l'altro Hollywood sta già preparando un remake di questo film, nonostante il premio del pubblico al Tribeca Film Festival, ma loro in America amano le copie più degli originali. Qui come in Twilight, giovani vampiri si innamorano di ragazzi normali, si mischiano, si capiscono, ribelli di una società ormai spenta. Ciò che cambia è la luce, il contesto, il ritmo della narrazione, in una parola il vestito del film, che diventa anche la sua anima, ed è per questo che Lasciami entrare ci tocca più nel profondo rispetto all'hollywoodiano concorrente. Al microfono di Boris Sollazzo, il regista Thomas Alfredson ci racconta il suo rapporto con la paura. I don't feel fear so much these days. Oggi da adulto non mi capita di provare spesso paura, per cui quando mi sono messo a lavorare al film ho dovuto fare appello al bambino che è in me per richiamare le situazioni che mi spaventavano allora. Io penso che la paura sia molto più forte quando la si immagina che quando si vivono situazioni anche molto spaventose. È la fantasia, sono le immagini che ci creiamo a spaventarci molto di più. Quindi io come regista, lavorando con le immagini, devo avere la capacità di creare delle suggestioni, dare agli spettatori degli elementi affinché siano loro a crearsi le immagini che poi li spaventano. Making suggestions to the audience to have those fantasies. Lui usa i vampiri come una lente di ingrandimento verso una società, verso dei rapporti. Well, for me this vampire creature in this film. Il vampiro del mio film è un po' l'immagine della rabbia di Oscar, il bambino protagonista del film, un bambino vittima di pesanti atti di bullismo a scuola, che sicuramente deve affrontare una violenza molto forte interiore che non riesce ad esprimere come dovrebbe. Quindi la figura del vampiro è un po' il catalizzatore della sua rabbia. E poi nel mio film il vampiro è anche il simbolo dell'atto animale che abbiamo tutti noi, perché oggi al 90% noi abbiamo perduto la nostra natura animale. Siamo esseri irrazionali e non esprimiamo più sentimenti primari, come ad esempio la rabbia, sentimenti che popolano invece il mito del vampiro. Rispetto ai vampiri classici invece abbiamo deciso di non insistere sul lato della sessualità, perché questa per me è una storia molto romantica. Romantic story. Era Thomas Alfredson, ospite qui alla Rosa Purpurea per parlarci del suo Lasciami entrare. A questo punto noi apriamo la prima parentesi sul DVD Game di questa settimana. Torniamo al tradizionale tre tracce di un film che dovrete indovinare per provare a vincere proprio il DVD di quel film. Ascoltiamo la prima. Mi chiedevo se uno di voi potesse indicarmi la via per il castello. Ehi, hey, guarda dove vai. Brontolo, nessuno è stato molto cortese con me. Strano, beh, benvenuta a New York. Ti ringrazio. La Rosa Purpurea, @radio24.it. Più tardi, le altre due possibilità. E c'è un tema che sta riempendo le pagine dei giornali ormai da qualche giorno, da settimane. Si tratta della nuova drammatica escalation di tensione e guerra fra Israele e Palestina. C'è un film che ci porta a uno degli episodi che fanno un po' da radice, che servono a spiegare anche il nostro presente, il presente di quella terra martoriata. Si tratta della strage di Sabra e Shatila, 1982, l'irruzione in un campo profughi palestinese con un massacro di civili inermi, fra cui molte donne e bambini. Walzer con Bashir, stile animato ma molto molto realista, firmato Ari Folman, fra poco qui con noi alla Rosa Purpurea, ci racconta il film. Barbara Righini. Incubo comincia Walzer con Bashir e i continui incubi del protagonista punteggiano tutto il film. Ari Folman ha conquistato l'ultimo Festival di Cannes con questa animazione surreale e onirica, di certo originale. Il regista è un ex soldato israeliano. Nel 1982 partecipa insieme ad altri soldati ragazzini all'invasione israeliana del Libano, che lasciò sul terreno centinaia di vittime civili. Guerra durante la quale ci fu il massacro nei campi profughi palestinesi di Sabra e Shatila. Può essere durato un minuto o un'eternità. Fatto sta che vedo Frankel in mezzo alla strada mentre gli piove addosso una miriade di pallottole. E invece di correre dall'altra parte, si mette a ballare il valzer tra i proiettili. Folman, ormai cinquantenne, non ha ancora superato il trauma di quegli eventi e il film, per sua stessa ammissione, ha rappresentato il suo percorso psicologico di accettazione della colpa. Walzer con Bashir è il viaggio personale del regista nei suoi ricordi a ricostruire una memoria ormai frammentata, e lo fa attraverso le testimonianze dei suoi vecchi compagni d'armi che Folman recupera e incontra uno a uno. L'intervista al regista di Walzer con Bashir, Ari Folman, è di Boris Sollazzo. Questo film è autobiografico, ma è anche l'autobiografia di una generazione che è stata traumatizzata da Sabra e Shatila. Sicuramente la prima guerra in Libano ha traumatizzato un'intera generazione. È stato terribile, era una guerra di difesa, ma i giovani soldati israeliani hanno visto da vicino villaggi, città, hanno incontrato i civili. Era la prima volta, hanno ucciso i civili, non hanno combattuto solo sui campi di battaglia. Perché la scelta di questo stile, questa animazione, poi questo inserti anche quasi onirici, anzi proprio onirici? Questo film racconta memorie, ricordi perduti e cancellati. Ci sono poi sogni, incubi, cose consce e non. C'è la guerra, è l'unica cosa vera e reale del film. L'unico modo per combinare il tutto era appunto usare il disegno. Quali sono le sensazioni vedendo adesso le immagini da Gaza City? Anger, rage. Provo una fortissima rabbia, le stesse sensazioni che ho provato nel 2006 durante la seconda guerra con il Libano. Lo dico nuovamente, il mondo si divide tra chi è assolutamente contro la violenza e quindi ritiene che vada fatto di tutto per evitare qualsiasi conflitto, e tutti gli altri. Purtroppo gli altri sono la maggioranza, troveranno sempre un motivo ideologico, di razza o religioso per continuare a uccidere. Io ritengo che per quanto riguarda questo conflitto sia stato fatto quasi nulla per evitarlo. Non ha funzionato la diplomazia e non c'è stato dialogo, e mi riferisco a entrambe le fazioni in guerra. E dopo i vampiri di Lasciami Entrare, la guerra di Walzer con Bashir, chiudiamo questa seconda parte del programma con note un po' più liete. Cosa accadrebbe se di colpo ci mettessimo a rispondere sempre e solo sì a tutte le cose che ci vengono dette? Se seminassimo positività invece che negatività? È quello che prova a indagare un film che si intitola Yes Man. Protagonista, il grande Jim Carrey, lo ha visto per noi, Micaela Bellisario. Faremo un patto solenne, Carl. Sei pronto per un patto solenne? La parola è sì, Carl. Sì, yes, ci vuole poco per cambiare la propria vita, basta una semplice parolina. E quanto impara Carl Allen, triste e depresso impiegato di banca mollato dalla moglie, che un giorno si ritrova coinvolto da un amico ad aderire a un programma esistenziale lanciato da un santone americano. Basta dire sì, questo il senso. Fatti avanti, futuro yes man. No, grazie, resto qui. Che cos'è che hai detto? No. No man! No man! Dire sì, stravolge in modo inaspettato e stupefacente la vita di Carl Allen, che fino ad allora aveva solo detto no e solo rifiutato proposte di amici e collaboratori. Comincia ad avventurarsi in insoliti corsi, impara il coreano e riprende a suonare la chitarra, partecipa a feste mascherate, aderisce a un sito per sposare una donna persiana, ottiene una promozione sul posto di lavoro e quando una sera frequenta un nuovo locale trova pure l'amore. Beh, grazie del passaggio. Allora, sei a posto? Sì, sì, a posto. Però sentivo di pronunciare un po'. Come? Chi è? Chi hai detto? Tratto da un bestseller di un autore inglese della BBC, Danny Wallace, Yes Man è una commedia semplice e ben riuscita, dove Jim Carrey, oltre a far ridere, regala anche alcuni momenti di introspezione molto intensi, costruendo un personaggio sì divertente ma anche tenero e vulnerabile, nel quale è facile identificarsi. Un pregio della commedia è di non limitarsi solo all'intrattenimento, ma di trasmettere un messaggio positivo di cui c'è bisogno, come spiega lo stesso Jim Carrey. You make films because their experience. Faccio film perché sono un'esperienza interessante da fare, mi diverto e imparo sempre qualcosa. In questo caso ho scelto di interpretare il protagonista di Yes perché mi ha dato la sensazione di poter essere utile e di poter dire qualcosa al mondo, alle persone che vanno al cinema. Sì, ho avuto la sensazione di poter trasmettere loro un messaggio positivo, soprattutto in un momento in cui per molta gente non è proprio un buon momento. La rosa purpurea. Terza parte della Rosa Purpurea, che si apre con il racconto del nuovo film americano di Gabriele Muccino, Sette Anime, ancora una volta con Will Smith insieme a Rosario Dawson e Woody Harrelson. In sette giorni Dio creò il mondo. In sette secondi io ho distrutto il mio. Un uomo chiama nella notte il 911. Venite, c'è stato un suicidio. E chi è la vittima? Sono io. Comincia così Seven Pounds, Sette Anime, il nuovo film hollywoodiano di Gabriele Muccino, con un Will Smith in piena crisi che chiama il pronto intervento per annunciare la sua morte imminente. Il film è il racconto dei giorni che precedono quell'estremo gesto. Ken Anderson, Ed Rice, Monica Freeman, Stephen Phillips, Sarah Jensen. Tutto comincia da questa lista, sette nomi, sette sconosciuti che Ben Thomas, agente delle tasse, contatta uno ad uno. Il suo scopo è fare loro del bene, aiutarli a superare difficoltà economiche, di salute, violenze domestiche. Ben Thomas si comporta come un angelo, suscitando ovviamente la sospettosa incredulità dei sette prescelti. Bussa alla loro porta, oppure si presenta in ospedale, esibisce il tesserino, li mette di fronte ai loro debiti col fisco, poi li grazia, li aiuta, gli promette dilazioni. Io ho il potere di cambiare radicalmente le sue condizioni. Ma non voglio fargli un regalo che lui non si merita. Chi è Ben Thomas? Perché si comporta così? Perché ha scelto proprio quelle sette persone? Ben Thomas è un uomo che soffre, questo è certo. Lo capiamo subito dai flashback che tormentano il suo sonno. Lo vediamo felice con la moglie, ingegnere aerospaziale di successo, e poi vediamo una macchina che si ribalta sulla strada e rigagnoli di sangue che tingono l'asfalto. Chi è Ben Thomas e cosa è successo quella notte? Io so di essere la ragazza dalle ali spezzate, ma chi sei tu? Io non voglio parlare di me. Peccato, perché sei molto interessante. La svolta definitiva è l'incontro con Emily Posa, uno dei sette nomi della lista. Bella e delicata, come il petalo di una rosa recisa, Emily soffre di cuore. Solo un trapianto può salvarla. Ben se ne innamora e questo fa cambiare i suoi piani, ma forse è troppo tardi. Quando firmerai sarai proprietaria della mia casa, ma non cercare mai di contattarmi, per nessun motivo. Gabriele Muccino conferma attore, clima e stile narrativo della ricerca della felicità, mettendo però stavolta la sua regia sensibile e accurata al servizio di una storia meno fluida e grintosa, dove le soluzioni sono più ricercate, costruite, meno spontanee. Qualche ridondanza drammatico-sentimentale nuoce al ritmo del film, le cui due ore sembrano qualcosa di più allo spettatore. È un film ambizioso, anche difficile e rischioso, e di questo va dato atto al regista italiano, che è come se avesse voluto mettere insieme il clima di Frank Capra con quello quello di Krzysztof Kieslowski. Un film che difficilmente si apre a un raggio di sole. Anche la storia d'amore fra Ben e Emily è minata sin dall'inizio e lo spettatore lo sa. Ciononostante, non mancano i colpi di scena, le accelerazioni, i momenti commoventi, le riflessioni sulla vita, sulla morte, sul nostro stare al mondo. Riflessioni universali, forse un po' demodé per il cinema di oggi, ma che arrivano allo spettatore prescindendo dalla qualità del film. Un film che ancora una volta premierà Muccino più al botteghino che sui giornali. Ma sentiamolo, Gabriele Muccino, ai nostri microfoni. L'idea che mi ha convinto in realtà era l'idea di fare un film su una storia d'amore estrema, un po' shakespeariana, che però raccontasse proprio l'amore in un modo assoluto. È proprio il fatto che l'amore riuscisse a tirare fuori dalle tenebre un uomo, ma quello che mi interessava di più era proprio la redenzione che lui riusciva ad avere grazie all'amore, cioè essere amato. Era la chiave di uscita per quest'uomo da questo luogo scuro, maniacale, direi ai limiti con la follia. Come dicevamo, un film che comunque lo si valuti si distacca dal tran tran produttivo hollywoodiano. Ancora Muccino. È un film molto difficile, è un film direi rivoluzionario per il sistema del cinema di Hollywood. Cioè Hollywood è un sistema impauritissimo verso le novità, per cui i film che fanno sono sempre un pochino la replica di quelli che hanno fatto dei soldi. Questo film che sta andando incredibilmente molto bene oggi, arriverà a 80 milioni almeno, è un film che tocca dei temi molto molto cupi e che in qualche modo riesce a emozionare la gente in modo molto forte. Questa idea del darsi è un'idea molto forte, ma in qualche modo anche di una civiltà enorme, molto progressista. E del sodalizio con Will Smith, Gabriele Muccino parla così. La mia forza reale oggi a Hollywood è il fatto di avere comunque la grande movie star oggi al mondo che mi segue. Quando hai vicino uno fa guadagnare più della General Motors, quando hai vicino uno che comunque ti dice facciamo questo film, gli studio si inchinano e dicono quello che vuoi, anche di più di questo. Questa è la fortuna di avere vicino Will, che mi rispetta, mi stima, mi segue per fare delle cose anche coraggiose. Interessante anche l'analisi che Muccino ha fatto sulle modalità e sulle differenze nella produzione dei film in America e in Italia. Questo film in Italia non l'avrei nemmeno letto, cioè non so, da noi purtroppo siamo costretti noi registi spesso a scriverci noi le nostre storie, perché non c'è questa scuola dello sviluppo dei copioni come c'è in America, in cui il produttore sviluppa un copione e poi viene affidato ad un regista quando il copione è pronto. Da noi non accade così, per cui in realtà le storie che noi abbiamo a disposizione come registi sono spesso molto legate alle nostre esperienze, e questo ci rende anche a volte ripetitivi. E Muccino ha anche rivelato qualcosa in più sul suo prossimo film americano. Quello lì si chiama What I Know About Love, quello che so sull'amore per adesso. Quello è scritto, appena trovo un attore che mi piace abbastanza e vuole farlo, è un film che può partire. Non sarà Will Smith, non è un film per lui. È una specie di Kramer contro Kramer modernizzato, parlerebbe comunque di una disgregazione familiare e di un recupero di una nuova famiglia, che secondo me è uno degli elementi più universali oggi. Sette anime, il nuovo film di Gabriele Muccino nelle sale cinematografiche da questo fine settimana. Noi andiamo a giocare nuovamente insieme con il DVD Game, la seconda traccia misteriosa di oggi. Ti sconfiggerò, lurida bestia rombante! Ma sei matto? Non puoi infilzare il mio autobus! Torna subito qui, maniaco in calzamaglia! La Rosa Purpurea, @radio24.it, se avete capito di quale film si tratta. Più tardi, un'altra opportunità. È l'ultimo film di cui vogliamo parlarvi in questa puntata, l'ultimo film in uscita in sala, è potenzialmente, per la popolarità del suo regista, per l'importanza del tema, un grande film, che però ha scelto un circuito particolare per questa uscita al cinema. Stiamo parlando di W, per intenderci, il film su George Bush, firmato Oliver Stone, presentato al Festival di Torino nello scorso mese di novembre, e che sarà programmato, questa è una notizia per tutti quelli che ci stanno ascoltando, il prossimo 19 gennaio in serata, dalla 7, quindi dalla televisione in chiaro, proprio la sera prima dell'insediamento di Obama alla Casa Bianca. Ciononostante, la distribuzione Dall'Angelo ha voluto provare in questi giorni anche un'uscita teatrico, un'uscita sul grande schermo, e noi, che siamo amici assolutamente del grande schermo e dei film visti in sala, non potevamo ovviamente non darvi questa notizia e questa possibilità. Per il momento a Novara, Pordenone, a Pisa, Vicenza, nel Biellese, ancora a Varese, ad Argenta, ma anche dopo la programmazione televisiva televisiva in altre sale, si sta lavorando per trovare degli spazi cinematografici a Roma, Firenze e Bologna, W sarà visibile appunto anche sul grande schermo. Il film lo aveva visto e aveva anche curato l'intervista con Oliver Stone per noi a Torino, Daniela Faggion, che ce lo racconta così. Sun coming up. Un ragazzone poco talentuoso e con il vizio dell'alcol, con un padre dalla carriera politica ingombrante e un fratello dotato, costante termine di paragone. L'ascesa di George W. Bush, presidente uscente degli Stati Uniti d'America, non inizia sotto i migliori auspici. W. ha però un'ostinazione disarmante e un'innata capacità di parlare alla gente, e spesso per i politici è ciò che conta di più. L'incontro con la moglie Laura prima e con un assistente lungimirante poi, insieme all'uscita di scena dei due parenti alla luce portata dalla fede, sono gli elementi fondamentali per l'arrivo di Bush Jr. sulla vetta del mondo, con grande sorpresa di tutti. Una sorpresa progressivamente scivolata nello sconcerto, però incendiato dalla guerra in Iraq. George W. Bush ha segnato profondamente la politica mondiale. Un regista come Oliver Stone, che annoverava già tra i suoi titoli film come Platoon e JFK, non poteva lasciarsi sfuggire un personaggio così controverso, disegnato sul filo della satira e cucito con intento drammaturgico e non documentaristico. Secondo Stone, la storia di Bush e della sua famiglia non è finita con il nuovo corso politico. Lo spirito di W. resterà vivo ancora per anni. Alla fine del film si capisce quanto abbia profondamente inciso George W. Bush sulla mentalità degli americani, e non solo. È stato il presidente americano più influente, più di Reagan e Nixon. E dopo un giro di sosta perché la nostra Michaela Belisario era malata, eccoci di nuovo, tornati a una delle nostre rubriche che sappiamo essere più apprezzate dagli ascoltatori. Trailer USA, che attraverso i suoni dei trailer originali dei film americani vi porta il cinema Stelle e Strisce nelle case qualche mese prima della sua uscita italiana. Bentrovata quindi qui con me a Michaela Belisario. Ciao Franco, buon anno agli ascoltatori. Dicevamo, Michaela, prima puntata del 2009 per Trailer USA abbiamo voluto parlare di un grande film attesissimo in questo nuovo anno, il thriller Angeli e Demoni, sequel o prequel se seguiamo il percorso narrativo del famoso Codice da Vinci tratto dal romanzo di Dan Brown. Il film uscirà in Italia il 15 maggio, lo ricordo, e anche stavolta il regista è Ron Howard. Nel cast ancora Tom Hanks, affiancato da Ewan McGregor e dal nostro Pierfrancesco Favino. Cosa ci racconti sulla storia, Michaela? Allora, intrighi, misteri e delitti, questo in estrema sintesi il film. Come nel Codice da Vinci, anche Angeli e Demoni comincia con uno strano omicidio, cioè uno scienziato che viene trovato ucciso in un laboratorio svizzero. Sul suo petto si trova incisa la parola Illuminati, per indicare la setta nemica della Chiesa Cattolica. Sull'omicidio viene chiamato a indagare Tom Hanks, ovvero Robert Langdon, il professore di simbologia religiosa di Harvard che avevamo già visto nel Codice da Vinci. Il trailer, per la verità un'unica traccia da un minuto, racchiude molto bene l'atmosfera enigmatica che pervade tutto il film. Hundreds of thousands are gathered in St. Peter's Square for conclave. It is on this night, in Vatican City, that an ancient ritual is taking place. The new pope is yet to be selected, as we see the black smoke coming from the chimney of the Sistine Chapel. Chi ha letto il libro lo sa, ma per tutti gli altri, perché gli Illuminati, una delle sette più antiche e potenti del mondo, hanno ucciso lo scienziato? La vittima in pratica era riuscita a isolare al CERN una certa quantità di antimateria e a conservarla in una sorta di sospensione cilindrica. E allo stesso tempo in Vaticano, come avete sentito dal trailer, si sta riunendo il conclave per l'elezione del nuovo pontefice, quando ci si accorge della scomparsa di uno dei quattro cardinali favoriti per l'elezione. Il nostro Langdon cercherà di risolvere questi enigmi. The entire world is watching and waiting. Which is why this is the perfect moment for our revenge. Bene, ciao Michaela, appuntamento alla prossima settimana con Trailer USA. Ciao Franco, un saluto agli ascoltatori. La rosa purpurea. E la quarta parte della Rosa Purpurea si apre con un ospite diciamo così presente con noi qui collegato al telefono, e un altro che è latente, è nell'aria. Si tratta di Sergio Leone, che il 3 di gennaio avrebbe compiuto 80 anni. E allora noi, per celebrare questo compleanno impossibile, diciamo così, abbiamo chiamato un amico del sottoscritto della trasmissione e del cinema, che è Italo Moscati, che è in collegamento con noi. Ciao Italo. Ciao a tutti i tuoi ascoltatori. Italo, abbiamo scelto te ovviamente perché hai pubblicato un libro proprio su Sergio Leone, quando il cinema era grande, e questo era un po' forse già una valutazione di un'epoca che a un certo punto si è un po' dissolta. Anzi, no? Franco, ti dirò che ogni volta che c'è un dibattito pubblico, anche quello che abbiamo fatto per esempio a Torella dei Lombardi, dove è nato Sergio Leone, che tutti mi domandavano: ma perché questo sottotitolo, quando il cinema era grande? Perché è un titolo apertamente polemico, perché Leone ha fatto un cinema di successo, da un humus del cinema italiano che ahimè non c'è più. Dico ahimè perché il cinema ha bisogno, come tutte le arti, di avere intorno degli spazi, dei personaggi, anche dei difetti, delle contraddizioni, che a un certo punto consentono di germinare dei prodotti che hanno anche un valore, come nel caso di quelli che ha fatto Sergio Leone, di spettacolo. Insomma, questo è il punto. Sergio Leone, di cui si sa praticamente tutto sotto il profilo soprattutto del regista, studiato in tutto il mondo, vivisezionato, analizzato, e allora noi, piuttosto che concentrarci in questo caso sui suoi grandissimi film, i grandi western Per un pugno di dollari, Il brutto, il buono e il cattivo, C'era una volta il West, oppure le grandi saghe, C'era una volta in America, potremmo andare avanti ore, vogliamo parlare un po' più dell'uomo in questo caso. E allora ti chiedo subito, Italo, che ottantenne sarebbe stato oggi Sergio Leone? Allora, guarda, purtroppo bisogna dire una cosa come premessa. Lui è morto che aveva 60 anni, quindi oggi veramente giovanissimo. Non era di buon umore, era depresso per tante ragioni, anche fisiche. Non stava bene, era diventato grassissimo, aveva perduto gran parte dei capelli, conservava la capacità di dire battute e anche di affabulatore, quella non l'ha mai perduta, ma purtroppo la salute non l'aiutava, non l'aiutava neanche il fatto che incontrava dei problemi molto grossi per un film a cui aspirava da tempo, che era La battaglia di Stalingrado, di cui lui aveva già scritto alcune pagine, ed era effettivamente, sulla base di quello che ho potuto leggere, un'occasione che lui avrebbe sfruttato benissimo. Ci avrebbe fatto qualcosa di molto simile a quello che Coppola ha fatto per il Vietnam con Apocalypse Now. Era insomma un insoddisfatto. Per chiudere, Italo, inevitabilmente il famoso film di Sergio Leone da portarsi sull'isola deserta, ma non ti chiedo tanto magari un capolavoro di quelli che tutti conosciamo, un film invece da riscoprire di Leone secondo te? Io ti direi, se dovessi dare una risposta definitiva, Giù la testa, però il film che in qualche modo potrebbe essere riscoperto, perché fa parte proprio degli inizi della sua carriera, del Colosso di Rodi, è un film che sta nel filone storico-mitologico, cioè quello del film di cartone, dove tutto è esagerato, dove tutto è poco credibile. Il fatto che lui riuscì a far costruire questo colosso alto 70 metri contro la volontà del produttore, che pensava che il Colosso di Rodi fosse invece un uomo semplicemente alto, varrebbe la pena appunto di vedersi in isola deserta sotto una bella palma e con una bella ragazza accanto, e oltre che una bevanda di quelle che piacevano a lui, un po' di rum e un po' di acqua minerale. Grazie a Italo Moscati anche per i consigli di bevanda e auguri anche da qua a là a Sergio Leone. Auguri a tutti, e a te e al tuo lavoro. E da Sergio Leone al nostro gioco, ultima traccia del DVD Game di questa settimana. E lì sarò. Non cantare, va tutto bene. Facciamo due passi. La Rosa Purpurea, @radio24.it. Se avete indovinato, e pensiamo che a questo punto siate anche già stati in tanti ad indovinare di che film si tratta. Sveleremo tutto, come sempre, la prossima settimana, insieme al nostro Claudio Poffi, che è in collegamento con noi. Ciao Claudio. Eccoci Franco, un saluto agli amici in ascolto. Allora Claudio, a proposito di svelamenti, andiamo a svelare, anzi a risentire prima di tutto, quella che era stata la traccia di un DVD game un po' particolare, quello di 7 giorni fa. Non è solo il viso, dia un'occhiata alla pelle. Dove vuole? Qui, sulla spalla. La tocchi. Sì, è gonfia, ispessita. Sì, e neanche questo è tutto. Guarda il contorno del viso. Modificata la struttura ossea? Sì, posso sbagliarmi su un muscolo, ma non sulla struttura delle ossa. C'è stato un cambiamento, ne sono convinto. Era la trilogia del dottor Quatermass, mitico esponente della prima fantascienza in bianco e nero del dopoguerra. Tre film: L'astronave atomica del dottor Quatermass, I vampiri dello spazio, L'astronave degli esseri perduti, che tra il 55 e il 67 hanno segnato un po' un percorso appunto nella storia della fantascienza. Film sicuramente da cineteca. Le domande che vi abbiamo fatto erano tre, stante il fatto che sapevamo con quali film stavamo giocando. La prima era: cosa usò l'autore degli effetti speciali dell'astronave atomica del dottor Quatermass, il capostipite di questi film, ovvero Les Bowie, per rendere il mostro del film più mostruoso? La risposta era, tra l'altro, interiore budella di animali, ovvero trippa bovina, e ha indovinato Marta Fabbri di Milano. Poi la seconda domanda era: quale fu il primo film prodotto nel 1935 dalla Hammer, la casa specializzata in film di fantascienza e dell'orrore, che aveva dato proprio il via alle serie del dottor Quatermass? E in questo senso la risposta era The Public Life of Henry IX, ovvero La vita pubblica di Enrico IX. E la terza domanda era: quale grande attore aveva interpretato Frankenstein e Dracula, quindi due miti dell'horror, in altrettanti film sempre della Hammer? E questo attore era Christopher Lee. Quindi gli altri due vincitori dei DVD della serie del dottor Quatermass sono Alberto Zandomeneghi di Verona e Giulio Maccaroni di Vimodrone. Riceveranno i film appunto di questa serie. Claudio, andiamo un po' a raccontare invece in complesso questa operazione della password relativa al dottor Quatermass. È un'operazione assolutamente eccezionale, perché dà per la prima volta la possibilità di visionare queste splendide opere realizzate appunto, come dicevi tu, a cavallo tra gli anni 50 e 60, in precedenza rese disponibili sempre da Password in un cofanetto, The Quatermass Collection. E la qualità di questi tre DVD è al meglio delle possibilità tecniche che in qualche modo, insomma, hanno consentito di migliorare ulteriormente la visione, soprattutto del film più vecchio, L'astronave atomica del dottor Quatermass. Ci sono naturalmente presenti limiti all'interno della pellicola, graffi, spuntinature, però insomma è finalmente possibile visionare queste tre opere. Sono presenti per tutti e tre i film, sia in italiano che in inglese, la traccia originale, quindi il doppiaggio originale in italiano è mantenuto. Solo il terzo, il più recente, L'astronave degli esseri perduti, è nel formato video cinematografico rettangolare, gli altri due sono in formato televisivo, ma così vennero realizzati. E a questo punto noi facciamo un salto in avanti di 40 anni e andiamo agli anni 90, quando la Birmania, poi tornata prepotentemente sulle prime pagine dei giornali, veniva analizzata da un film che si intitolava Beyond Rangoon, Oltre Rangoon. Ascoltiamo la clip. Devo riportarla immediatamente a Rangoon. Non può venire a Rangoon con lei, lo uccideranno. Il suo nome è sulle loro liste. È sotto la mia responsabilità, io l'ho portata qui e io devo riaccompagnarla. Aunco, cos'è successo? C'è stato un massacro a Rangoon, l'esercito ha aperto il fuoco sui dimostranti. Erano disarmati, era solo una marcia pacifica. Qualcuno ha parlato di questa casa, stanno arrivando i soldati. C'è una stazione ferroviaria a Prom, la porti lì, professore. Distribuisce Warner l'ultimo splendido film di John Boorman, che realizzò appunto nel 1995, fotografò l'immagine drammatica della Birmania che insorge coi tumulti popolari contro la dittatura militare. L'interprete è Patricia Arquette, che arriva in Birmania per dimenticare una tragedia familiare e finisce coinvolta in questi eventi dolorosi. La qualità dell'opera è eccellente, sono presenti sia la versione in lingua italiana che in francese a due canali e addirittura multicanale in inglese. Interessanti gli extra, perché oltre al trailer c'è un bellissimo documentario, Looking Beyond Rangoon, Testimoni della Verità, che approfondisce i reali eventi della fine degli anni Ottanta. Altro salto in avanti, veramente quasi ai giorni nostri, un maestro del cinema orientale, Wong Kar-wai, si cimenta con un'ambientazione occidentale, con attori occidentali, in Un bacio romantico. Ascoltiamo la clip. Hai ancora le chiavi? Sì, penso sempre a quando mi hai detto di non buttarle mai per non lasciare quelle porte chiuse per sempre. Sai, delle volte anche se hai la chiave, la porta non si apre, comunque. E anche se la porta si apre, magari la persona che stai cercando non è là dietro. Distribuisce 01 il titolo di BIM, questo splendido film coinvolgente di Wong Kar-wai, e il racconto di questa donna Elizabeth che dopo una dolorosissima rottura di una relazione intraprende un viaggio attraverso un'America disincantata che la vedrà coinvolta in modo ulteriormente emotivo. L'opera Un bacio romantico è offerta in una splendida edizione due dischi. Il primo disco contiene il film con qualità video ineccepibile, il secondo disco contiene numerosi approfondimenti. Ricordo, questo è il primo film che vede coinvolta la cantante Norah Jones nel ruolo di attrice. C'è un approfondimento appunto dedicato a Norah Jones, la realizzazione dell'opera, un video musicale, e ricordo che per la prima volta è disponibile questo film sul secondo disco in versione iPhone e iPod. Grazie allora a Claudio Pofi, come sempre tutti gli aggiornamenti sui DVD qui alla Rosa Purpurea. Alla prossima settimana, Claudio. A presto, a risentirci. E si conclude come sempre con gli approfondimenti sui DVD la puntata della Rosa Purpurea, puntata che vi ha fatto spaziare all'interno della proposta cinematografica di questo fine settimana, piuttosto ricca, forse cambierà qualche equilibrio nei vertici delle classifiche del botteghino, lo sapremo la prossima settimana quando il menù sarà almeno altrettanto ricco. Appuntamento quindi sabato prossimo alle 18, domenica prossima alle 9 del mattino qui su Radio 24 per La Rosa Purpurea, il settimanale di cinema. Un saluto da Franco D'Assisti.